Ok, qua le plenarie si sono susseguite e la decisione ora è che qualcuno se ne andrà fra qualche ora dal blocco e qualcuno prima della notte e invece qualcun altro resterà durante la notte. Diciamo la decisione è stata abbastanza libera. La maggior parte ovviamente resterà tutta la notte. E quindi poi si sta organizzando anche l'arrivo di coperte, viveri, trasporti per chi invece vuole rientrare al campo, eccetera, eccetera. Le notizie che abbiamo finora è che siamo in circa 6.500 in totale con tutti e cinque i blocchi. Qui dove siamo noi ora sul blocco del treno e siamo 4 dei 5 blocchi, l'altro, l'arancione, invece è riuscito a passare e arrivare, diciamo, alla miniera e lì loro erano 600, sono stati comunque bloccati, verranno portati a un treno, adesso non si sa bene se chiederanno delle accuse oppure no, comunque verranno portati al treno e riportati verso Durum e presumibilmente al campo, ecco. Sicuramente non ci raggiungeranno. Nell'attraversare l'autostrada noi abbiamo visto qualche persona fermata, anche malamente dalla polizia, però c'erano anche degli idranti, eccetera, comunque le persone arrestate, fermate quantomeno, non erano molte, però non ho un numero preciso per il momento.